insieme anche oggi lunedì 20 febbraio, naturalmente sempre rigorosamente in diretta su CRMP Radio, naturalmente in compagnia di Jerry per trascorrere quest'altra settimana insieme a me, sempre con la bella musica di CRM. Oggi tra l'altro sono anche in compagnia in radio, sapete perché? Perché è cominciato il secondo corso di formazione radiofonica e quindi ci sono i sei selezionati che in questo momento dall'altro lato della stanza stanno facendo proprio lezione. Che bello, quindi tutti in compagnia oggi, bello, bello, divertente. E allora, intanto vi ricordo subito i numerini per le vostre richieste, per le vostre dediche. Vi ricordo lo 0921 92 32 92, il 335 56 37 251, e ancora potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmhappyradio.it o ancora su Facebook in chat, dove fare la vostra richiesta anche da lì, perché no? Ma anche fatemi un salutino, va bene uguale. Allora, io sono pronta per partire, pronta per cominciare, pronta a tenervi sempre compagnia. E allora direi di cominciare con una bellissima canzone. Partiamo, via! Vejo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, mi amor. Vejo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero. Vejo bonito, quiero ser a mina. Vejo bonito, quiero ser a mina. Proprio cominciato bene con questa bella canzone ritmata, bella, bella, bella. Se da appena, tra l'altro, si è appena concluso la 62esima edizione del Festival di Sanremo, e allora perché no? Cominciamo ad ascoltare allora i nuovi pezzi e andiamo ad ascoltare Emma con Non è l'inferno. Ho dato la vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese, in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Quindi dicevo poco fa che si è appena conclusa la 62esima edizione del Festival di Sanremo con la vittoria appunto di Emma Marrone con il brano Non è l'inferno. Un podio diciamo tutto al femminile e tutto di ispirazione ai talent show. Infatti Emma, ricordate, è uscita dal talent show di Amici, poi si è classificata seconda al Festival di Sanremo a Risa, anche lei diciamo che ultimamente è stata una dei giudici di X Factor, e poi Noemi, che tra l'altro anche lei è uscita da un talent show da X Factor. Quindi voglio dire, tutte ragazze che sono uscite da degli show televisivi. Per i giovani invece a vincere è stato Alessandro Casillo con il brano È vero, anche lui proveniente tra l'altro dalla trasmissione Io canto, quindi anche lui è arrivato al festival già con un bel po' di popolarità. E poi vi ricordo che il premio della critica invece è andato a Samuele Bersano con il brano Un pallone. Oggi magari ascolteremo anche qualche brano uscito da Sanremo. Abbiamo cominciato quindi con la vincitrice e poi andremo sempre avanti. E allora noi continuiamo sempre con la bella musica, naturalmente in diretta su CRMP Radio, sempre in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme. Bello ricordo per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento. E noi continuiamo e andiamo avanti con una bellissima canzone. Yeah, we're diamonds in the light. And we're standing side by side. As the shadow crosses mine. What it takes to come alive. anche questa, vero? E allora vi ricordo che siete sempre qui in diretta con me. Noi continuiamo con la bella musica, continuiamo con Sanremo. Adesso andiamo ad ascoltare il vincitore dei giovani, Alessandro Casillo, con me. È vero? Perché ho scritto una risposta per me, per te. Vorrei, ma ho scelto di aspettare. Vorrei qualcosa, vorrei un giorno per star con te, per come sei. Qualcosa di vero che proteggerei. Che poi non parlo mai abbastanza, però ripeto, però qualcosa di vero c'è, ma non si sente. Qualcosa che sembri tu nella mia mente, dentro il cuore che batte più forte quando stai con me. Quando il mondo mi sembra più bello inizia ad essere. Perché è vero che ci sei, se ci sei. Perché è vero che ci sei. Vorrei che accorcio le distanze. Potrei che cerco qualcosa in più da non pretendere. E sento qualcosa che non so nascondere. Dentro il cuore che batte più forte quando sto con te. Quando il mondo mi sembra più bello inizia ad essere. Perché te CRM Radio. Bella questa canzone, quindi secondo me ha meritato proprio la vittoria. Bene. Oggi vi dicevo poco fa che è il 20 di febbraio, quindi siamo al secondo giorno di carnevale. Wow, che bello! Quindi che tutti ci vestiamo, ci mascheriamo e poi ci sono tanti dolci, soprattutto le chiacchiere. Devo dire che a me piacciono tantissimo. Dico, se qualcuno di voi si trovasse a passare da queste parti, no? Per farmi assaggiare qualche chiacchieretta, beh, io sono qui, le porte sono aperte, con piacere. Ci sarà qualcuno di buona volontà? Vediamo. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. Dance with Somebody, la voce straordinaria di questa straordinaria veramente artista. Qualche sabato fa, sabato scorso praticamente, si sono svolti i funerali a Los Angeles per l'ultimo saluto a questa grande artista, appunto Whitney Houston, nella chiesa che lei ha frequentato da quando era bambina. Si è trattato di una cerimonia privata a cui hanno partecipato 1500 persone. Il funerale è stato trasmesso in diretta dalla CNN e molte reti locali. Diciamo che è stato scandito da canzoni, cori gospel, ricordi e momenti molto toccanti. Kevin Costner, una delle tante star che ha partecipato alla funzione, con la voce rotta dal pianto, ha definito la Houston uno sweet miracle, un dolce miracolo. Ha raccontato del film Bodyguard, dei momenti delle riprese, delle insicurezze di Whitney e della sua paura di non essere all'altezza della situazione. E poi conclude il suo discorso con una frase dicendo: non preoccuparti perché anche ora sarai all'altezza. Alla cerimonia doveva esserci anche Aretha Franklin, amica di famiglia, ma per motivi di salute non ha potuto partecipare. Gli altri artisti c'erano anche Beyoncé, Mariah Carey, Alicia Keys, Stevie Wonder, che ha cantato un paio di canzoni. C'è stata anche una breve apparizione dell'ex marito Bobby Brown, e ancora però sono sconosciute le vere cause del decesso della cantante, anche se sono state rinvenute bottiglie di ansiolitici e sonniferi nella stanza dell'hotel dove è stata ritrovata. Comunque i risultati ci saranno a breve. Comunque noi continueremo a ricordarla sempre con la sua voce straordinaria, perché un artista così, devo dire, ce ne sono una su 100. Eh sì, è proprio vero. E noi continuiamo con Sanremo. Adesso andiamo ad ascoltare Gigi D'Alessio e Loredana Bertè in Respirare. E su questa canzone io saluto Maria e Giorgia. Un bacione grande. Fermati un momento, dimmelo chi sei. Unica guerriera, non ridi mai. Prova un po' ad amare e amati di più, non è sempre uguale, lui non c'è più, è un passato da bruciare, torna ad essere di nuovo ancora tu. Io non voglio amare, solo libertà, e sono chiusa a chiave e ci resterò. So di farmi male, male non mi fa. Voglio stare sola, così mi va. Non trovare più parole, sono un muro forte che non crollerà. Respirare, ad occhi chiusi prova a farlo anche tu. La mia ragione si farà sentire, e ciò che conta non c'è niente di più. Ci sei ma non ci sei, non cambio idea per davvero, ragioni non ne hai, prova a soffrire anche tu. Perché star male, bugiardi come la luna, noi siamo ancora qua. La tua falsa libertà, apriti alla vita, io sono qua. Siamo sole temporale, sarò vento che il tuo fuoco accenderà. Respirare, ad occhi chiusi prova a farlo anche tu. La mia ragione si farà sentire, e ciò che conta non c'è niente di più. Ci sei ma non ci sei, non cambio idea per davvero, ragioni non ne hai, prova a soffrire anche tu. Perché star male, bugiardi come la luna, noi siamo ancora qua. Respirare, ad occhi chiusi prova a farlo anche tu. La mia so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great!" Oh my God, this is great! Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just want. Studio, naturalmente siete sempre all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry. Vi terrò compagnia fino alle 17 circa, sì, sempre con tanta bella musica. Adesso già sentite questa bella canzone in sottofondo, vado a salutare Giusy e Tony, un bacione grande, in questo momento stanno lavorando, buon lavoro, mi raccomando, se fate qualche chiacchieretta di carnevale, portatemela. Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che del terrore abbiamo fatto amore, noi due arterie diverse dello stesso cuore. Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Chi ti prenderà? E passa il tempo lento, mi giro e mi tormento, e se ti chiamo lo so che trovo sempre spento, perché non ci parliamo, perché non perdoniamo, noi due foglie cadute dallo stesso ramo. Tu dimmi dove sei, se vivi un'altra storia, we'll E su questa canzone saluto nuovamente Tony e Giusy che in questo momento ci stanno ascoltando. Buon lavoro, buon lavoro. Al solito io stavo cercando, no, qualche notiziola carina, no? Vabbè, ne ho trovata una che arriva dall'India. Perché in India, praticamente, oltre ad acquistare un pacchetto di sigarette, si possono anche comprare singolarmente ed è possibile accenderle subito grazie a un accendino fissato al lato del negozio chiosco. Ed è proprio da questo che nasce l'idea alla base della campagna indiana contro il fumo: montare al posto dei classici accendini, diciamo delle specie di accendini musicali che intonano, sentite un po', un canto funebre ogni volta che qualcuno li utilizza per accendere la sigaretta. La melodia scelta si intitola Ran Nan Ais Satya, l'inno per eccellenza che viene cantato ai funerali, che ormai è diventato sinonimo di morte. L'idea è semplice: cercare quindi di sfruttare il famoso canto funebre per far arrivare un messaggio antifumo chiaro e convincente e spingere quindi le persone a smettere di fumare. Come tutti sappiamo, quella contro il fumo è una lotta che comprende svariate campagne in tutto il mondo, ma certamente quella indiana ha una marcia in più, non solo innovativa ma anche musicale. La campagna sembra funzionare molto bene a quanto pare, perché come ha riportato la stampa inglese, quasi tutti gli aspiranti fumatori che hanno tentato di usare questo accendino canterino corrono via non appena parte il canto funebre indù. Altri invece sono così spaventati per la nuova offensiva antitabacco che gettano via la sigaretta. Quindi funziona, quindi va benissimo. Che cosa strana, vedete quante cose si inventano per evitare di far fumare. Beh, intanto fa male, quindi importante è saperlo. Quindi smettete di fumare. E noi andiamo avanti. I'm on my own, waiting for you in the dark. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, se eu te pego, eccomi qua, sono ritornate su questa canzone. Saluto nuovamente Rambo che ci segue sempre, sempre. Un affezionato, un fedelissimo. Ciao, ciao. E noi continuiamo come sempre con la bella musica di CRMP Radio, naturalmente sempre in compagnia di Jerry. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica. Fisica, attrazione. Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni. Non ci sono. Non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile. Sta capitando proprio a me. Si dice amore. Serve, è questione sai di tempo. Ci sorprende prima o poi. Prima o poi. Questo è l'amore che fa cambiare in ogni parte di te. Finirci dentro è inevitabile. capire, è una semplice esigenza, forse la risposta è tutta qui. Tutta qui. Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché, tanto lo sai che è inevitabile, ed è successo anche a me. Eh sì, è proprio inevitabile. Beh, l'amore quando arriva, arriva. È così, è, ti prende e basta, e basta. Siano le 16, sì, è l'ora del caffè, ma nessuno qua, non mi portano né dolcini né caffè, proprio non mi pensa nessuno. Radioascoltatori, vi prego, se qualcuno di voi fosse così gentile a venirmi a portare un caffè, beh, sarebbe molto, la cosa molto molto gradita. A proposito di caffè, diciamo che quando si lavora, giustamente, si sente la fatica e si annebbiano le idee, beh, c'è sicuramente bisogno di una bella tazza di caffè da bere in compagnia degli amici, no? Però alcuni scienziati della Penn State University, diciamo che hanno realizzato un'applicazione per smartphone che calcola il momento ideale, sentite un po', in cui consumare bevande con caffeina oppure bevande gassate. L'applicazione si chiama Caffeine Zone Software e si propone di aiutarci a capire quando la caffeina può darci quella sferzata che ci rende più reattivi mentalmente e quando invece può creare problemi al sonno. In pratica l'applicazione elabora le informazioni sull'uso della caffeina e sui suoi effetti e produce inoltre un grafico di come questa sostanza influisce sulla persona nel corso del tempo e ci indica se possiamo bere più di una tazzina o se meglio evitare. Vedete quante notizie interessanti, belle. Quindi per chi avesse uno smartphone può comunque farsi calcolare quando è giusto bere il caffè, in quale momento ideale della giornata. E noi continuiamo con la bella musica e su questa canzone io saluto il mio carissimo amico Simone. Ciao Simone, buon lavoro. sensazione inaspettata, un sogno indescrivibile. La sensazione più delicata, profonda e così semplice. Ringrazio il cielo per la gioia pura che ora tu regali a me. Come pioggia fertile scendi a gocce piccole di sete, una vita che si era inaridita. Pur restando immobili presto scivoliamo in infinite distese, sorvoliamo ad occhi chiusi, tuffandoci come angeli e come due innamorati felici di perdersi in fondo all'anima. E questa canzone, così come tante, sarebbe trascurabile, ma ogni parola cercata nel cuore è un segno indelebile. Ringrazio il cielo e la fortuna di quel giorno che incontrasti me. Come terra fertile, pioggia, gocce tiepide, sostieni una vita già rifiorita. Rimanendo immobile corri per le orbite infinite, mi porti nel tuo sole. Colpiscimi, sorprendimi, accendimi, linfa dei miei sistemi. Abbracciami e stringimi che notte non verrà. E se per la prima volta io ti incontrassi adesso, son sicuro che in un lampo ti amerei lo stesso. Come pioggia fertile scendi a gocce piccole di sete, una vita che sembra rinata. Pur restando immobili presto scivoliamo via infinite distese, sorvoliamo. Colpiscimi, sorprendimi, perché tu sei linfa nei miei sistemi. Abbracciami e stringimi che notte non verrà. E siete sempre qui in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry sino alle 17. Vi terrò compagnia sempre con tanta bella musica e sempre qualche notiziola. E su questa canzone io saluto il mio carissimo amico Filippo che in questo momento mi sta e ci sta ascoltando. Buon ascolto Filippo. You keep saying you've got something for me, something you call love but confess. You've been messing where you shouldn't have been messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Eccomi ancora qui, sempre con voi, a tenervi compagnia con tanta bella musica. Sapete, stavo guardando al solito qualche notiziola da darvi. E beh, sapete che per mantenersi in forma si può anche con il dog walking, cioè praticamente portando il cane a passeggio. Quindi possedere un cane incoraggia a fare movimento combattendo una vita sedentaria. Il cane giustamente deve uscire più di una volta tutti i giorni e questa sua necessità è un potente strumento per mantenere attivo in forma anche il suo padrone. Questo è il risultato di uno studio dell'Università di Liverpool, lo studio che è stato compiuto soprattutto sulle donne in gravidanza. Passeggiare con un cane quindi aiuta a mantenere un buon passo e costituisce un esercizio a basso rischio, in particolare per le donne in dolce attesa, quindi riducendo il pericolo di un aumento di peso in eccesso. Quindi, praticamente, possedere un cane fornisce qualche motivazione in più per uscire di casa e andare a fare una passeggiata, non solo quindi per le donne in gravidanza, ma per tutti. Quindi questa potrebbe essere un'ottima scusa, insomma, con il proprio cagnolino si comincia a fare belle passeggiate. Qua in studio oggi succede di tutto e di più, mi fa morire da ridere. Poi devo dire che oggi ricordo che oggi è cominciato il secondo corso di formazione radiofonica e ci sono i ragazzi in studio che dall'altro lato della stanza stanno facendo la loro lezione. Sono stati selezionati tra tantissimi ragazzi che hanno partecipato, hanno mandato il proprio curriculum. Ragazzi, in bocca al lupo, buona lezione, continuate così. E noi che facciamo? Beh, noi continuiamo sempre e naturalmente con la buona musica, sempre qui di CRM Happy Radio. Chissà che cosa si staranno dicendo, chissà di che cosa staranno parlando i ragazzi dall'altro lato della stanza, ma magari andrò a curiosare, andrò a chiedere di cosa parlano, chissà cosa ne pensano di questa, della radio, chissà cosa ne pensano. Sì, andrò a chiedere, mi staranno ascoltando? Ops, vediamo. Se pensi che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi, due metri dopo, l'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi? Sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. E poi con quello che succede, una storia come questa non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. So che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però, perché fermarsi? In radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa e non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore, aspetta. Gira di qua, gira di qua, gira! Poi con quello che succede in una vita come questa, forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno. Ad ogni anno, ogni semaforo, semaforo che c'è. Che discorsi, chissà che discorsi faranno dall'altro lato i ragazzi del corso di formazione radiofonica. Beh, lo scopriremo, tra un po' andrò a sbirciare, a sentire di cosa parlano. E noi, come sempre, continuiamo con la bella musica, naturalmente sempre qui in diretta su CRM Happy Radio. You shout it out, but I can't hear you. We'll be right back. Luce Nera, ci vediamo a casa. Bella questa canzone della 62esima edizione del Festival di Sanremo. Bella, bella veramente, mi piace. E noi, come sempre, continuiamo con la bella musica ancora per qualche minutino, sì, quasi, mezz'oretta quasi, e poi dovremo salutarci. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, here but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before. Salutare, vabbè dai, pazienza, poi ritornerò comunque sempre a tenervi compagnia. Ma dico, nessuno che passa da queste parti a portarmi un caffè? No? Non c'è nessuno di buona volontà? Io aspetto sempre, sono qua fino alle 17, aspetto, le porte sono aperte. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me. Se la tua bellezza è la tua bellezza. Mentre giri sull'ultima giostra, come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste le stagioni, come sassi in un torrente, come fanno i nostri sogni. Se la tua bellezza Renga, la tua bellezza. Devo dire che anche questa è una bella, bella, bella canzone. A proposito di bellezza, a Miss Italia, sentite un po', sta per chiudersi l'era delle ragazze in bikini. Qualcuno si sentirà orfano, ma la patron, Patrizia Mirigliani, sembra aver preso la sua decisione. Sentire il ministro Fornero sui cattivi esempi che offre la televisione, ha detto al Corriere della Sera, mi ha fatto molto riflettere. E sono arrivata alla conclusione che sia inutile e fuori contesto mostrare ragazze in costume da bagno per farle conoscere meglio ai telespettatori. Cosa aspettarsi dunque dal più famoso dei concorsi di bellezza, diciamo, dove il costume da bagno è sempre stato un must? Siamo passati nel giro di pochi anni dal dibattito sulla necessità di mostrare il lato B invocato da Guglielmo Mariotto al coprire ulteriormente le ragazze. Non penso affatto di coprirle con il burka, ha specificato la Mirigliani. Dico soltanto che non è più il tempo e il modo. Se qualcuno avesse perplessità, la patron sembra sicurissima della sua scelta. Non sono diventata matta, puntualizza. Il nostro è e resta un concorso di bellezza e pertanto chi giudica deve poter guardare bene le candidate. Ma non c'è bisogno di un bikini in uno studio televisivo a settembre inoltrato per valutare se una è bella oppure no. Quindi queste ragazze sfileranno in abiti. E quindi la sfida proprio sarà per gli stilisti. Io penso a una sfilata di ragazze con indosso abiti che valorizzano la loro figura, dice, continua la patron di Miss Italia. Il loro carattere, quindi mostrerà il loro carattere. Saranno femminili, sensuali, si renderanno interessanti proprio perché non si spoglieranno inutilmente. Il limite quindi con la volgarità è fragilissimo. E ancora dice, insiste molto sul concetto del format televisivo. E ancora è perfettamente d'accordo, quindi non ci saranno più le ragazze in costume da bagno, ma sfileranno quindi in abiti. Bene, bene, questa è un'altra bella notizia. Quindi non è per forza che bisogna mettersi in costumi da bagno per vedere se una ragazza è bella oppure no. Anche con un semplice vestito si può benissimo vederla e far vedere la bellezza della donna. E noi ancora continuiamo per qualche minutino e poi naturalmente dobbiamo separarci. Andiamo avanti con la bella musica. And you and me should be alone tonight, yeah, baby. Tonight, yeah, baby. I got a reason that you who should take me home tonight. To feel the rush, l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora: sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, parole. Solo parole. Questa è l'ultima canzone in programma per oggi. Io vi do l'appuntamento a mercoledì, sempre qui in diretta su CRM Più Radio, all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry. Dillo che sei un po' gelosa perché quest'anno hanno le carpette differenti rispetto a quelle del vostro. Sì, vero. Sì, stavo guardando queste, infatti, che i nuovi ragazzi del corso hanno le carpette diverse. Noi ce le avevamo piccoline, invece queste c'erano belle grandi. E vabbè, dai, pazienza, che dobbiamo fare? Adesso vi lascio in compagnia di Rocky D'Antoni con la sua On The Road, vi terrà compagnia sino alle 17 e naturalmente ci risentiamo mercoledì sempre a partire dalle 15 sino alle 17, no Robby dalle 19, ecco sbagliato, ops, eccola. Iniziate a dare i numeri, vabbè, dai, no, non vi preoccupate, tutto sotto controllo. Vabbè, tutto normale, va bene, dai, meglio che saluti, do i saluti e vado via, che dici Robby, sì, ok. Vai a riposarti, vai, ormai l'età c'è, vai a riposarti. Ma cosa dici? Ma pensa per te, tu hai una certa età, mica io, eh. Dai, non svegliamo l'età, va, facciamo così, dai. Allora vi auguro un buon carnevale, oggi è il secondo giorno di carnevale, divertitevi, andate a ballare, mangiate senza esagerare, mi raccomando, e ci vediamo, buona serata, baci baci, ciao! Semplicemente.